24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Vogliamo elettori, il bagno alla turca! Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Pare che Obama abbia detto in sostanza questo a Renzi: mi fido di te, come dice Jovanotti. Al presidente Obama vorrei dire con grande forza che quel messaggio che ha caratterizzato The Fourth Message, Yes We Can, e che tutti noi ricordiamo come un messaggio di possibilità e potenzialità, oggi vale anche per noi in Italia. The First Message. Ce la facciamo, insomma, Yes We Can. Io non ce la faccio stamattina, ve lo dico. Non so voi. No, I can't. Stamattina le 4 ore scarse di sonno si sentono, eh? A proposito di questo, li sistemiamo tra poco i politici. E si sono lamentati che ieri si sono svegliati alle 5:30, mannaggia, averli qua davanti uno a uno. Mi fido di te. Le due cosine da dirgli. Vabbè, alle 6:34 minuti è venerdì e questa è una... C'è Carmelo Lauricella che ha esultato come in un gol di Van Basten nel derby nel 98. Alla notizia è venerdì, Carmelo Lauricella in regia. Saluto anche Miriam Lucchetti, anche lei è venerdì, ha allargato, si è aperta in un sorriso che non finisce più. E allora il Parlamento può aprire, eh? Sì, alle 6:35. Un caffè se può avere. Sì, sì. Volentieri a tutti quanti. Va bene. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Sì, va bene. Proprio il giorno giusto, eh. E avete scelto, grazie, il giorno giusto di quelli che ti dispone in una condizione psicologica ottima. Allora voglio salutare Massimo De Manzoni, torna con noi dopo un po' di tempo, vice direttore di Libero. Eccoci Massimo, come va? Buongiorno, io c'ero anche prima. Sì, tu che sei mancato. Sì, sono mancato io, è vero, è un po' che non ti chiamavamo. Voglio salutare anche Alessandro Giglioli dell'Espresso, anche lui è un po' che non ti sentiamo, no? Avevi... Ma così per la gioia dei tuoi ascoltatori. Ovvio. È tenuto così. Ovvio. Faccio? Grido alla censura. Fai come il turco Milan. Diciamo così, Milan mi ha lasciato dormire per un po'. Ecco, a proposito. Ma tu parlavi dei politici ieri, del Papa, ma sì. Quelli sono diventati presi, sono peccati ceffoni. Appunto. Allora, iniziamo intanto da questo. Si sono svegliati alcune alle 5:30, hanno iniziato a twittare. Ma che sveglio! Terribile, non ce la si può fare. Qua c'è gente che da anni si sveglia alle 5 e non rompe i coglioni così. No, chiariamolo subito. Cioè, mamma mia, si sono svegliati una volta alle 5:30. C'è l'Italia che vive svegliandosi alle 4, alle 4:30, alle 5 da anni e non dice niente. E poi sono andati dal Papa tutti in fila, tutti contenti, e quello neanche gli ha detto buongiorno. Patapam! Sentiamo cosa ha detto Papa Francesco. Questa classe dirigenziale che si era allontanata del popolo e soltanto era con l'interesse nelle sue cose, nel suo gruppo, nel suo partito, nelle sue lotte interne. E parlava del passato, ma sembrava... E poi sentite il Papa. È tanto difficile che un corrotto sia riuscito a tornare indietro. Peccatore sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti, ma il corrotto è fissato nelle sue cose, e questi erano corrotti, uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini. Gesù li chiama loro sepolcri imbiancati. Eccolo lì, Massimo De Manzoni. Neanche la speranza gli ha dato. A ceffoni li ha presi, li ha fatti svegliare alle 5 e li ha presi a ceffoni. Questo è. Io sono, i miei amici lo sanno, non sono laico ma anche totalmente agnostico. Però abito vicino alla Scala Santa, quindi mi sa che oggi vado, la faccio sulle ginocchia per ringraziare il Papa di queste cose. Ecco, riguarda, Massimo, diglielo subito, populista, demagogo. No, ma la soddisfazione che si deve essere preso. No, ma infatti, sì, la soddisfazione, il Papa si sveglia alle 4, quindi De Manzoni, per lui è... No, poi la cosa particolarmente divertente che nel giro di un anno è la seconda volta che si ritrovano a prendere schiaffoni in pubblico, ma alla grandissima, e a essere costretti anche a applaudire, perché da napoletano, quando napoletano sotto la rielezione disse di tutti i colori, loro bravo ad applaudirla, è vero, non siete stati incapaci di leggere un presidente della Repubblica, bravo, non sapete fare la legge elettorale, quelli bravo. Sì, è una roba così, che come ce la dobbiamo godere, no? Ce la dobbiamo, cosa dobbiamo fare? La rivincita del popolino, caro Giglioli, cosa dobbiamo? Ma il popolino, sai, il popolino poi dopo il popolino rischia anche di, come dire, la risposta, adesso parlando seriamente, io mi sono divertito tantissimo a vedere le facce di Formigoni, ma non solo suo, per carità, mi è venuto in mente Formigoni perché era più cattolico, uscendo da quella messa. Però il problema poi è che quando si tratta di sghignazzare di questi politici siamo tutti d'accordo, quando si tratta poi di fare delle scelte che ci consentono di superare questa classe politica facciamo ancora difficoltà. Io sto pensando alle europee, non è che ce l'ho con chi ha votato Le Pen, per carità, anzi, voto del tutto lecito, nel senso che l'Europa fa talmente schifo che una reazione di pancia ci può anche stare, io sono lontanissimo da Le Pen. Però il grosso problema è che la faccio breve, la distruzione di questa, la marcificazione che sta avvenendo di questo establishment, che di questa classe dirigente, non solo in Italia ma in Europa, per ora è senza alternative razionali, questo è il vero problema. Però secondo me. Vabbè. Massimo De Manzoni, ti vuoi esprimere? Oh, me l'hai buttata sullo stesso, no, infatti, su questo cosa... infatti è un po' un concetto filosofico, politico. Non ha battuto l'audience. Però vorrei da Massimo De Manzoni un soccorso in questo momento su questa analisi di Giglioli alle 6:40. Così impietoso, ma non è, da sempre abbiamo una classe politica che ci meritiamo e che ci rispecchia poi fondamentalmente, dopodiché ogni tanto gli scarichiamo addosso anche più di quello che merita, o meglio, abbiamo delle occasioni in cui le scarichiamo addosso tutto quello che non siamo riusciti a scaricare addosso subito prima, ma alla fine sì, nonostante le leggi elettorali che poi si dice sì, sono nominati e tutto quanto, però io sono abbastanza convinto che la classe politica rifletta in massima parte ma lo diciamo sempre, non è che vengono da Marte, sono gente italiani che vengono eletti e fanno politica. Poi l'altra notizia, insomma, la sapete, c'era Obama, no? Il Papa è stato impegnato anche con Obama, anche Renzi con Obama, Yes We Can. Io devo dire, ho letto i giornali, tutte analisi così, insomma, dell'incontro, tutte uguali, qualche problema sui temi etici tra Obama e il Papa, poi Yes we can anche voi, we can anche noi, we can anche Giglioli, anche De Manzoni, can, tutto così, e poi Obama che va al Colosseo e dice wow, è più grande di uno stadio da baseball quando entra, cioè no ma è vero, tutto... Però no, non lo so, il retro non detto cos'era, Obama che dice ma oh, sti F-35 li comprate? Non so, Giglioli, forse questa. Oh, li comprate o no, sti F-35? La prima nota è che ogni volta che viene un presidente americano a Roma ci sono almeno un milione di romani che diventano filorussi, perché il traffico che fa creare. Sì, è chiaro. Vabbè, insomma, pazienza. Per un giorno, sì, vabbè. poi oggi è venerdì, yes weekend, quindi yes weekend, mamma mia, yes weekend, Giglioli, vabbè, se si dice dopo. Detto questo, di cosa si sono parlati? Dunque hanno parlato, sì, sicuramente è andato a dirgli che dobbiamo comprare quelle carcasse che ci vogliono vendere, e poi dopo credo che abbiano parlato anche un pochino di tutta l'economia mondiale che non va molto bene, visto che in teoria Renzi, scusatelo come l'ho messa giù, brutale da bar, però il grosso problema di Renzi è di riuscire a fare quello che in America Obama ha potuto fare, cioè sfondare dei vincoli che in America non hanno, sì. E così è riuscito in qualche modo, adesso la metto sempre da bar, siamo al Parlamento, è riuscito a far ricrescere l'economia. Renzi ha dei vincoli che Obama non aveva, infatti gli ha spiegato un po' le riforme, quello che deve fare. È molto più difficile per noi perché siamo incatenati all'interno di questi stupidi vincoli europei rispetto a com'era per Obama. Però vorrei capire. Però ho parlato anche dell'NSA, un pochino. Ah, dell'NSA, la sicurezza, i controlli. No, ma non lo so, infatti vorrei capire quanto dai giornali, Massimo De Manzoni, anche voi cosa scrivete, cioè quanto di profondità dell'analisi c'è di quello che si è detto e dicono in conferenza stampa e quanto invece, insomma, di non detto. Di che non appare sui giornali, di più profondo magari si sono scambiati. Giglioli ha ragione, cioè gli Stati Uniti hanno interesse che si allenti un po' il rigore in Europa perché poi il mercato richiede queste cose qui, e tra l'altro c'è in ballo un trattato di libero scambio molto importante tra l'Europa e gli Stati Uniti, probabilmente hanno parlato anche di quello, però fondamentalmente, parliamoci chiaro, se vogliamo essere proprio realisti, la visita più importante per Obama era quella col Papa, perché doveva accreditarsi in vista delle elezioni del midterm presso soprattutto i repubblicani, presso un tipo di elettorato, e lì non gli è andata benissimo, diciamo così, cioè, non che Papa Francesco abbia preso schiaffoni, ma insomma non è che... sui temi etici c'è un po' di maretta. Non è che abbia tutto quello che voleva. Poi l'altra cosa che gli stava molto a cuore era la gita con Napolitano, e lì si è beccato un no, nel senso che da Napolitano lui voleva stiamo andando oltre le parole, quindi oltre quello che si è detto, perché avete un precedente meraviglioso, eccetera, eccetera, ma questo precedente meraviglioso, quando gli ha chiesto la grazia per alcuni dei rapitori di Abu Omar, gli ha detto di no. Americani, si è sentito rispondere che non poteva neanche parlare di grazia in Italia in questo momento perché gli si apriva un casino micidiale, come l'Orsi e a Berlusconi. A Berlusconi entra sempre, Berlusconi nei discorsi. E poi, ma ci aveva già pensato un po' Napolitano, ha detto a Renzi, guarda che con gli F-35 qui non è che possiamo scherzare più di tanto. E poi ha fatto questa cosa che noi abbiamo trovato particolarmente fastidiosa e che rimarchiamo oggi sul giornale, di dire, poi tra l'Ucraina, sempre parlando da bar, tra l'Ucraina, lasciate perdere l'Ucraina che ce ne occupiamo noi grandi. Però voi dovete occuparvi invece del Mediterraneo, abbiamo un sacco di problemi in Libia, in Egitto, eccetera, eccetera. Datevi da fare lì, e lì sarebbe stato da prendere la Schiaffi, perché c'è qualcuno che ha veramente creato un casino in Libia, cioè l'Italia, ai suoi tempi, aveva anche detto, non è proprio il caso di andare lì a fare tutto questo casino. Eccolo là, l'antiimperialista De Manzoni, avete creato i casini con nel mondo, nel Mediterraneo, nel mondo arabo. Adesso... Non ci hanno capito niente delle primavere arabe. Finalmente, ci volevi tu a dirgliela Obama queste cose. Altro che 24 mattino. L'amministratore delegato dell'FS Moretti ha dichiarato che fare l'amministratore delegato è fatica. Invece, siccome vado a pulire i cessi a Sant'Orsola di Bologna per 900 euro al mese, io mi diverto. Che strano questo mondo. Ci meravigliamo se il Papa fa il Papa. Ci meravigliamo se un automobilista si ferma per far passare un pedone. Ci meravigliamo se qualcuno ci chiede scusa. Ma noi siamo normali. Buckingham Palace costa un quarto del Quirinale. Possibile che un presidente comunista viva quattro volte meglio di una regina figlia e nipote di re? ma ricominciare con Berlusconi no, quello non ce la facciamo. Il bunga bunga c'è per stato, lo scaffetto di quella lì, ma chi se ne frega, lasciatelo a casa quello lì. La cosa attualmente è vergognosa che mi hanno tolto casa. Ho staccato la luce perché ovviamente sono andato via, mi è arrivato il conguaglio della luce, 1,50 euro, ce ne vogliono 3 per fare il bollettino e 2 per pagarci. Il vero problema dell'Italia sono tutti quegli italiani che non hanno voglia di lavorare. Ho visto gente, professionisti da 40.000 euro all'anno, che fanno la gara che arriva allo schema 440 di Candy Crush. Gente che si guarda i siti porno sul lavoro. E mio figlio non troverà un posto di lavoro perché sarà occupato da una persona che lava i suoi calzini nel bagno aziendale e poi li appende sotto la scrivania. Secondo lei da ieri sarebbe ripartito il campionato? Illusione dolce chimera se tu e per sognare sperare. Vabbè, l'abbiamo perso così questo ascoltatore che se n'è andato. Allora siamo con Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, Alessandro Giglioli. Vogliamo sentire Renzi sul cibo. C'è questo l'altra domanda: ha mangiato cibo italiano? È arrivato un aereo con le derrate alimentari per Obama, ma forse ha mangiato. No, siamo un po' così. Ci interessa se ha mangiato cibo italiano. Io personalmente ho molto apprezzato. Sono felice di questo, che in occasione di questa visita il presidente Obama avrà anche un piccolo parte di tempo per visitare alcuni luoghi storici di Roma, e spero anche che l'ambasciatore John Phillips gli abbia preparato del buon cibo italiano e una buona qualità della vita in questa giornata e mezzo nel nostro paese. Sei più dolce d'un sogno. Non lo so, ma Giglioli, mi sembra che siamo sempre un po' lievemente provinciali quando facciamo queste. Non lo so, ma forse sono troppo ingeneroso. Magari anche quando vanno in Giappone gli dice: speriamo che tu mangi sushi. Non lo so, no, non lo so. In Grecia la fetta. Non lo so. Un po' meglio noi, dai, della fetta. Sì, comunque, vabbè, no, eccolo là, l'orgoglio italiano. No, mi piace ogni tanto andare a mangiare del greco. Ma Renzi ha fatto lo spottone sperando che qualcuno lo vedesse negli Stati Uniti la conferenza stampa. Dubito, sì, che sia stata data con la stessa enfasi che sì, da noi. Nove però, pagine dei giornali insomma, su questo, sulla visita. Domani lo troviamo, signor Renzi. Comunque devo fare due off topic, posso, sì, Milan? Cos'è che devi fare? Primo, due fuori disco, off topic. Ah. Tu sei uomo di internet, le sai. Non eravamo al Bartolomeo. No, infatti. Dai, dici. Gli off topics Primo, basta mandare il traffico. Già te lo dico io, c'è traffico. Io tutte le volte che mi chiami sono sul balconcino perché sennò sveglia mia moglie, sì, e te lo dico, c'è traffico. Uscite in bicicletta, in motocicletta. Primo, quindi, secondo, quello che ha detto De Manzoni, chiedo scusa, non solo è stato interessante, giusto, sotto l'aspetto del Mediterraneo, ma ha rilevato una cosa che voglio vedere se bravissimo De Manzoni, che io mi ero dimenticato. Di quella porcheria che è il trattato, che sarà il trattato interatlantico, che adesso non la meno perché sennò ti ho fatto un'altra volta l'audience. No, il trattato interatlantico. Sì, il trattato commerciale, sì, che, sì. Sì, che sarà il prossimo, adesso noi tutti ci sghignazziamo, sarà il prossimo fiscal compact, cioè la prossima roba. Di questo 10 anni ci accorgiamo che è una. Tu, Massimo, ne sai qualcosa di questo trattato interatlantico? Ti sei. Sì, io della verità lo guardavo con un occhio un po' più ottimista perché speravo che invece fosse la sponda sulla quale mitigare un po' il fiscal compact, cioè che l'America c'è appunto per ragioni sue, non perché ci vuole tanto bene, ma per ragioni commerciali sue ha bisogno che i cordoni della borsa qui si allentino. E in questo modo ci dice una mano ad allentarli, perché altrimenti qui di rigore si muore. Quindi io francamente ho una visione meno pessimista. Allora, non è neanche pessimista, vi lascio con questo. Cottarelli, avete saputo che ha fatto uno sfogo. Cottarelli, il commissario della Spending Review, sul suo blog ha pubblicato tutti i suoi beni immobiliari, quello che ha, le case, e poi ha detto basta, io costo 2.000 euro al mese. questa è la mia paga, 2000 euro al mese, basta polemiche sul mio stipendio, 2000 euro al mese per fare il commissario della revisione della spesa. Massimo, è così, sì, 2000 euro. Sì, su Cottarelli non si è fatta un po' di facile demagogia in questi sì, giorni, perché Cottarelli... che ricordiamo è un bel comunistone che arriva da CGL, per cui tra l'altro è stato massacrato dai suoi. Cottarelli, francamente, prima dell'era Cottarelli le ferrovie perdevano tanti di quei quattrini. Ma no, sì. Cottarelli a spendere più, tu ce l'hai con Moretti. Scusami, no, scusami. Cottarelli comunistone, ho detto no, Cottarelli, no, Cottarelli, quello che taglia la spesa. Vabbè, ci dobbiamo fermare qui, abbiamo messo Cottarelli alle ferrovie. Succede anche questo al Parlamento. Vi devo ringraziare, salutare Massimo De Manzoni, Alessandro Giglioli, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:17. Forza, italiani! Dai, che torna lo schema Allegri. No? Dai, dai! Lo ha reso celebre, quindi ogni tanto va recuperato, no? Eccoci qui alle 7:17 minuti. Oggi parleremo alle 8:15 di pena di morte. Ebbene sì, è uscito il rapporto di Amnesty International, sono aumentate le esecuzioni nell'ultimo anno. Pena di morte che io fieramente alla quale fieramente mi oppongo sempre e comunque. Ditemi la vostra se la pensate anche in modo diverso, con le telefonate. Dalle 8:15 avremo ospite Gianni Ruffini, che è direttore di Amnesty International Italia, ma avremo ospite anche un signore, un italiano, si chiama Pietro Venezia, che nel 93 ha compiuto un omicidio in Florida, ma per evitare una probabile condanna a morte è fuggito in Italia, dove ha scontato la pena in Italia, e ci racconterà la sua storia di colui che ha preferito scappare da un paese dove rischiava altrimenti la pena capitale. Questo più avanti, dunque alle 8:15, mi raccomando, state con noi, intanto leggiamo i giornali. In questo venerdì 28 marzo i titoli, il Sole 24 Ore, titoli, ve lo dico, quasi tutti declinati alla visita di Obama. Obama, crescita e lavoro, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera invece l'incoraggiamento di Obama all'Italia. Per Repubblica, Renzi a Obama, l'Italia taglierà le spese militari. La Stampa, Obama scommette su Renzi. Il Messaggero, Obama a Roma, mi fido di Renzi. E poi il Fatto Quotidiano, gli F-35 non si toccano, Obama e Napolitano mettono in riga Renzi. Ecco, sulle spese militari vedete che ci sono visioni diverse. Oppure c'è il titolo del Manifesto, il Papa Boy, e c'è la foto di Obama. Crescita e lavoro, yes we can, così apre L'Unità, mentre le aperture diverse, Libero, Occhio, ricalcolano tutte le pensioni, non sanno dove trovare i soldi. Mentre il Giornale, Berlusconi apre la campagna, meno Europa per tutti. L'apertura invece di Avvenire, l'apertura anche della notizia che più mi ha colpito, poi alle 6:30 ne abbiamo già parlato, no? Il Papa e i politici, via dalla corruzione. Ieri il Papa non è stato protagonista solo dell'incontro con Barack Obama, ma anche è stato protagonista della messa che ha costretto alla levataccia i politici italiani. Io ho già detto la mia sulla levataccia, visto che insomma ci sono milioni di italiani che si svegliano ogni santo giorno alle 5 del mattino, anche prima. I politici italiani, dovevate vedere ieri i tweet, le dichiarazioni, perché alcuni sono dovuti svegliare alle 5 e mezza perché il Papa aveva fissato la messa per i politici e parlamentari alle 7 in punto. I tweet, oh, che levataccia, no, non si può vivere così, disperati. E in più sono andati alla messa del Papa e il Papa praticamente li ha trattati a schiaffoni, questo per usare un gergo certo non istituzionale. La levataccia di 518 politici, il Papa li manda all'inferno, titola così per esempio il Giornale a pagina 4, oppure il Fatto Quotidiano che dedica l'apertura di pagina 2-3 a questo: non hanno capito niente, un inno alla preghiera. Queste le reazioni alla messa del Papa. 518 politici vanno dal Papa e Francesco gli dice: via i corrotti, Dio perdona i peccatori, ma i corrotti no. E ancora anche Avvenire la mette in prima pagina: il Papa e i politici, via dalla corruzione, siate più vicini al popolo. Cioè in pratica si sono svegliati alle 5 per essere pure trattati male all'omelia del Santo Padre. Affollatissima la messa per i parlamentari, ma Francesco non risparmia la tirata d'orecchi: i peccatori saranno perdonati, i corrotti no. Questo è anche il titolo del Messaggero: per i corrotti non ci sarà perdono. Vabbè, piccolissimo contrappasso dunque per questa messa alle 7 del mattino. Ma a proposito di sfoghi, lo sfogo vero lo ha fatto il commissario per la spending review, Carlo Cottarelli, colui che tutte le cronache danno sempre per isolato un po' a Palazzo Chigi, con una scelta che forse non piace più al Premier, al governo, a Matteo Renzi. Beh, lo sfogo di Cottarelli, come scrive il Corriere della Sera con Antonella Baccaro a pagina 10, costo 2.000 euro al mese. Carlo Cottarelli non ne poteva più evidentemente delle polemiche sul suo stipendio, e allora è andato sul blog e ha scritto questo sul suo blog. Chi scrive a proposito del costo del commissario per lo Stato dovrebbe stimare che il mio lavoro costa alla Repubblica Italiana circa 28.500 euro l'anno. Firmato Carlo Cottarelli. È uno sfogo in piena regola, scrive il Corriere, quello dell'ex direttore del Fondo Monetario, affidato al proprio blog, ignorando gli inviti alla prudenza dei suoi consiglieri. È una ricostruzione completa della propria posizione reddituale e patrimoniale per rispondere alle polemiche sui presunti compensi. E alla fine una rivelazione: al netto delle tasse pagate in Italia, il favoleggiato compenso si riduce a poco più di 2.000 euro netti al mese. Ha scritto ancora Cottarelli: avevo in passato indicato pubblicamente che la mia retribuzione annua lorda è stata determinata in 258.000 euro. Mi è stato fatto notare che questa informazione non era stata inserita, e sebbene allora non esista alcuna norma che imponga né inviti il commissario a pubblicare informazioni personali, pubblico sul sito tutte le informazioni riguardanti il mio stato patrimoniale e il mio reddito. Ed ecco, scrive il Corriere, spuntare la casa di Washington del valore di 850.000 dollari in comproprietà con la moglie, così come quella di Cremona da 250.000 euro. E poi le attività finanziarie e investimenti nel fondo Azimut per 1.800.000 euro, poi la pensione percepita dal Fondo Monetario, 220.000 euro, e infine il compenso da commissario, 258.000 euro, sono 140.000 netti, 380 euro al giorno, precisa tra parentesi Carlo Cottarelli. E il Corriere scrive: sarà la fine delle polemiche questa pubblicazione di Cottarelli, che ha anche pubblicato di più ciò che non era neanche chiesto dalla legge, tutta la propria posizione reddituale. Vabbè, le polemiche invece continuano, cari automobilisti. Avete sentito anche nel giornale radio sulla questione delle strisce blu, ne avevamo parlato la scorsa settimana. La notizia era questa: se parcheggiate sulle strisce blu, quindi il parcheggio a tempo, e poi protraete la sosta oltre quanto avete pagato, secondo l'interpretazione del Ministero, non vi deve arrivare alcuna multa, al limite i comuni vi possono chiedere semplicemente ciò che non avete pagato, trattenendovi di più sulla striscia blu. E invece ora controordine, i comuni si sono arrabbiati, sono andati dal ministro e hanno detto ma no, insomma noi continuiamo a fare le multe. E allora ieri c'è stato un chiarimento al ministero tra il ministro Lupi e Fassino, che è il presidente dei comuni italiani. Strisce blu, tornano le multe, cari italiani, io ve l'avevo detto, voi eravate già pronti ad arrivare alle 8 del mattino, lasciare la macchina parcheggiata nella striscia blu e riprendere a pagare magari un quarto d'ora e riprenderla alle 8 di sera. Tanto dite, vabbè, al limite mi chiederanno quello che è il costo della giornata, 5, 6 euro, non lo so, 10 euro. E invece no, i comuni si sono impuntati e il ministero ha dato loro ragione. Le sanzioni verranno decise dai comuni in maniera autonoma. Per la riscossione servirà una delibera, e mi immagino già tutti i segretari comunali tutti a scrivere le delibere questa mattina dalle 7 del mattino per adeguarsi alla normativa. I comuni potranno dunque con scelta autonoma continuare a dare le multe per chi si ferma sulle strisce blu oltre quanto ha pagato. Multe sulle strisce blu lo decidano i comuni, questo è il titolo della Stampa. La retromarcia del governo, le posizioni erano distanti, scrive Antonio Pitoni a pagina 16, anzi antitetiche. Fassino partiva da una premessa: un incontro si fa per cercare la sintesi, augurandosi che Lupi, il ministro, non si limitasse a ribadire una posizione che non è concretamente gestibile. E così alla fine è stato. Per le zone a strisce blu, laddove la sosta si protragga oltre il termine per il quale si è pagato, la sanzione pecuniaria potrà essere irrogata solo in presenza di specifica previsione del comune. Le faranno queste delibere, state tranquilli. Anche su Repubblica c'è una pagina dedicata a questo, pagina 29, strisce blu, tornano le multe. Sanzioni decise dai comuni, ne scrive Cristiana Salvagni, e insomma, tiravate un sospiro di sollievo e tornate a pagare farabutti della multa e delle strisce blu. Impareggiabile Milan, sono Actarus, Goldrake, principe del pianeta Flit. Ma quando sono sulla Terra sento sempre la sua rassegna stampa. Vabbè, ma insomma, io devo pubblicamente mandare un abbraccio enorme, non so come fare ad abbracciare a Romano Malaspina, la voce di Goldrake che avete sentito. Mi ha mandato, è arrivato ieri, un pupazzetto di Gig Robot d'acciaio degli anni. Io stavo piangendo quando ho aperto questo pacco dall'emozione. Caro Romano, grazie, un abbraccio se sei all'ascolto, un abbraccio ad Actarus, un abbraccio alla voce di Goldrake, e non so, c'è lì il mio pupazzetto, non ho neanche il coraggio di toccarlo per la paura di romperlo. Vabbè, il pupazzetto di Gig Robot d'acciaio, dovreste vederlo, vi faccio una foto nel weekend e la mettiamo su Twitter e su Facebook. Allora, alle 7:32 minuti. Vabbè, i giornali oggi raccontano per 7, 8, 9, chi 10 pagine la visita di Obama in Italia, le prime 10 pagine. Guardate, sono tutte con la fotocopia, tutte uguali, resoconti. Obama che si intrattiene 50 minuti col Papa, Obama che poi vede Renzi e la conferenza congiunta, yes we can anche noi. Obama che dice crediamo in Renzi, crediamo nell'Italia. Obama che poi va al Colosseo e dice oh, how big, grande, più grande di uno stadio da baseball, e fa questa visita guidata con una cicerone donna che gli illustra tutto il Colosseo, tutto uguale. E anche le analisi di come sono andate queste visite, per esempio quella col Papa, è interessante. Carlo Marroni in prima pagina del Sole 24 Ore racconta come ci sia stata in realtà qualche frizione tra Obama e il Papa sui temi etici. È serio il Papa argentino quando stringe la mano al presidente democratico, i due volti del continente americano sotto il cupolone romano. I due leader planetari stringono l'intesa su temi sociali ma restano distanti su quelli etici, scrive Carlo Marroni. Barack Obama, arrivato in Vaticano con il segretario di Stato, il cattolico John Kerry, e con il consigliere per la sicurezza Susan Rice, è rimasto 50 minuti nello studio con Papa Francesco, un colloquio fitto che ha spaziato dai temi di politica internazionale fino a quelli più spinosi che riguardano i contrasti tra l'episcopato americano sull'aborto, l'esercizio dei diritti alla libertà religiosa, alla vita, all'obiezione di coscienza, nonché il tema della riforma migratoria sono gli argomenti citati da fonti ufficiali vaticane. Mentre su immigrazione, lotta alle sperequazioni economiche, difesa delle minoranze, c'è stata piena identità di vedute, diverso il caso delle ricadute dell'Obamacare, la riforma sanitaria contestata duramente dalle gerarchie ecclesiali americane. Obama ha promesso al Vaticano di continuare il dialogo con i vertici cattolici americani, ma ha anche aggiunto che le diversità tra lui e il pontefice restano. Infatti, subito dopo ha detto: Sua Santità è stato chiaro nella sua visione, io su alcune cose sono d'accordo, su altre parzialmente d'accordo. Ma qualche divergenza dal punto di vista delle questioni etiche c'è. Obama ha visto anche il presidente della Repubblica Napolitano dicendo: ti trovo in gran forma. Ma insomma, su questo retroscena del feeling tra Barack e Bergoglio, anche Repubblica scrive: la sintonia non cancella i contrasti su aborto, sulle nozze gay, e infatti anche Avvenire titola pagina 5 la posizione del Papa ribadita a Obama: rispettare l'obiezione di coscienza. 50 minuti di incontro tra i due, Sua Santità è stato chiaro sulla sua visione, ha detto Obama, io su alcune cose sono d'accordo, su altre parzialmente. Ecco, questa è la frase che viene ripetuta anche in prima pagina di Avvenire. Poi vabbè, l'incontro è stato anche poi con Renzi, la conferenza stampa congiunta sulle varie tematiche delle spese militari, e poi ci si è concentrati su questo. Ci sono visioni un po' diverse, per esempio secondo Repubblica Renzi ha ribadito a Barack Obama in questi momenti di incontro a un certo punto: io devo ridurre le spese dello Stato, tra queste anche le spese militari, anche noi stiamo riducendo le spese per la difesa che con le due guerre in Iraq e Afghanistan erano schizzate verso l'alto, gli risponde del presidente Obama, ma ti assicuro che manterremo un ruolo forte nell'Alleanza Atlantica e nel Mediterraneo, promette il capo del governo italiani. E poi vabbè, insomma, queste cose molto di colore che a me stanno un pochino anche di provinciale, 7-8, quando hai 7-8-9 pagine da riempire per la visita di un capo di Stato, seppure il capo di Stato importante, cosa fai? E poi le riempi con queste frasi: oh caro Matteo, ma tu quanti figli hai? Io ne ho due, Natasha e Malian. E vabbè, ma lo sapevamo, cioè, nel senso, vabbè, però è chiaro che anche questo finisce sui giornali come una pagina dedicata ovunque alla visita del Colosseo di Obama, con tanto di intervista su Repubblica alla professoressa che ha accompagnato Obama spiegando che voleva sapere tutto di quello che succedeva, i gladiatori all'epoca, il sangue. Alla fine Obama si è accomodato sulla tribuna più alta, sugli spalti più alti del Colosseo, dicendo: questa evidentemente era la posizione migliore, perché da qui il sangue non si vedeva così da vicino. Oh, vabbè. E va bene, niente. E poi dopo sono andati a farsi una spaghettata, credo, non lo so. Renzi almeno ha auspicato anche questo, che Obama mangiasse in un buon cibo italiano. Devo dire che per il momento ci sono poche analisi, poche su quella che è il senso vero dell'incontro e quindi appunto l'importanza strategica dell'impegno nell'Alleanza Atlantica da parte dell'Italia, l'importanza anche dell'impegno dell'Italia nel Mediterraneo. Ecco, su questo Obama ha notato che Renzi ha fatto il primo viaggio a Tunisi, il primo viaggio istituzionale, e questo è stato considerato molto positivo dagli americani, che ci vedono strategici nell'affrontare le questioni al di là del Mediterraneo. Se molto si è parlato certamente anche di spese militari. Nel retroscena di Maria Teresa Meli, a pagina 5 del Corriere della Sera, era un Renzi soddisfatto, racconta quello che ieri ha lasciato Villa Madama. All'inizio c'è stato un po' d'impaccio perché Renzi non è abituato a questi rituali, al che Obama gli ha detto: ti do una mano, io queste cose le so bene, le faccio da anni. E Renzi gli ha risposto: non è un mistero che per tanti di noi, per me, per Federica, cioè Federica Mogherini, ministro degli esteri, per un'intera generazione tu sia stato e sia una fonte di ispirazione. Dopodiché il premier ha illustrato tutte le riforme che il governo ha intenzione di mandare in porto, quelle istituzionali, il Jobs Act, cioè la riforma del lavoro, tra l'altro con questo acronimo rubato proprio a Obama, sarà stato contento per questo. E alla fine Renzi ha detto: Obama, le mie sono scelte difficili che verranno contrastate, al che la risposta di Obama: so che da voi ci sono resistenze come ce ne sono da noi. Vabbè, una delle resistenze politiche, lasciamo il viaggio di Obama, è quella certamente per la riforma del Senato. Renzi tira dritto, vuole preparare appunto la riforma del Senato, il nuovo Senato alla prova del PD, così titola pagina 12 il Corriere, che a pagina 13 fa un elenco di quelle che sono le resistenze che già si vedono, già si notano all'orizzonte, con Monica Guerzoni. Riforma il fronte del no, ecco chi farà resistenza, la mappa di tutte le reazioni, gli umori parlamentari per la riforma del Senato, a cominciare da il senatore lettiano Francesco Russo, che ieri sbottava: calendario parlamentare alla mano, da qui alle europee ci sono 28 giorni utili. Nemmeno De Gasperi, Moro e Leopoldo Elia insieme potrebbero riformare il Senato in 28 giorni. E ancora ammonisce anche Mario Mauro: la riforma di Berlusconi era uguale a quella di Renzi e i cittadini la bocciarono. No, questa è una frase di Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. E ancora Corradino Mineo: alla riunione del PD ho detto a Renzi: attento Matteo che infroci, mi ha risposto: non ti preoccupare. E ancora Walter Tocci: Renzi non può dire o votate la riforma o me ne vado, perché non si minaccia la crisi politica per cambiare la Costituzione. Mentre il bersaniano Miguel Gotore: è una deriva peronista dolce come forma di populismo, è sempre in agguato, le riforme vanno sottratte a un interesse elettorale. Insomma, questa è la mappa del Corriere di tutti coloro che si metteranno di traverso per la riforma del Senato. A proposito di riforme, però, c'è anche la riforma del mercato del lavoro, che è molto in discussione, e tra l'altro anche qui, almeno a giudicare il titolo di Repubblica, pagina 10, Goffredo De Marchis, il retroscena è questo: il PD si spacca sul Jobs Act di Renzi, la sinistra del partito contesta il provvedimento e allo stato attuale mancano i voti per farlo passare, rischio di bocciatura immediata in commissione. E per questo c'è stato un vertice tra il capogruppo Speranza e il ministro Poletti, perché, scrive Goffredo De Marchis in questo retroscena, stavolta il PD può davvero implodere. Così lo ha spiegato il capogruppo Speranza al ministro Poletti in un lungo incontro a quattro occhi lunedì pomeriggio. I numeri, ha detto Speranza, non ci sono e non funzionerà il metodo che abbiamo usato per l'Italicum. Viene Renzi all'assemblea 24 ore prima del voto decisivo e sistema le cose. Dobbiamo invece preparare il terreno. Lo scontro e il confronto sarà mercoledì prossimo. La linea di Poletti però è: non metterò in discussione le scelte strategiche del testo. Insomma, Repubblica fa sapere che sul Jobs Act, e quindi sulla riforma del lavoro, su cui si spende molta della credibilità politica di Renzi, che ha detto lo facciamo, il PD rischia davvero di spaccarsi, quindi di non avere i numeri. Vabbè, a proposito di spaccamento, no, saluto Mauro Meazza. Ecco Mauro, buongiorno. Sempre a proposito, devo entrare. Benvenuta così, mi è venuta così. così all'ultimo. Ma ecco, niente, guarda. Hai visto che hai ripreso il campionato infrasettimanale? No, non mi sembra. Ah, non ti sembra? Ah, no, allora, no. Allora no. E poi c'è sempre una mancanza di rigore comunque. Sì, sì, infatti. Momenti. Ma infatti, guarda, stamattina ho detto, oggi è sorto il sole. E ieri Mazzarri ha chiesto un rigore. È sempre così. E vanno... È così, sì, succedono queste, però... Succedono infatti, due volte al giorno, sorge e tramonta. E Mazzarri... Senti, guardiamo più in là. Ti voglio parlare di Cina. Oh, Cina. Ottimo. Sul Sole 24 Ore di oggi, due vicende cinesi. Mm-hmm. Innanzitutto il fatto che la banca centrale cinese, per dir così, è salita oltre il 2% di yen yen. E come no? Questo non è mica un dettaglio da poco, a parte che è una cosiddetta soglia rilevante. Ma comunque tutti i particolari nelle prime pagine, in un servizio che mostra appunto questa avanzata della banca centrale nell'Eni e nell'Enel. E poi... però hanno, come non è, ma le due notizie non sono collegate per carità, hanno sostanzialmente consentito l'import, cioè la nostra esportazione colà in Cina di salumi. Ottimo. Quindi noi pagheremo bolletta e loro polchetta. Questo potrebbe essere, però ti ripeto, io le ho collegate perché sono così un po' ciarliero. Mattina è anche turbato dalle vicende del campionato, ma le due cose non sono collegate, sono due articoli ovviamente molto puntuali sul Sole 24 Ore di oggi. E poi guarda che ti controllano il conto in banca, sì. Se chiedi di usare gratis l'asilo, di andare all'università con la retta bassa, cioè usi l'ISEE, che è quello che però noi giornalisti chiamiamo riccometro, sì. Ecco, attenzione, ti chiedono, andranno a controllare la tua giacenza media del conto in banca. Ottimo. Perché non è simpatico che poi tu abbia non 2 euro ma magari 2 milioni di euro e ti chieda degli sconti, come dire, sono cose che disturbano. E se invece volessi mobilizzare finalmente questi 2 euro che tieni lì sul tavolo e non ne fai nulla, o i 2 milioni di cui non ci hai detto nulla peraltro, ma va bene, in questo caso allora i rapporti tra di noi cambiano e diventiamo molto più amici, caro Alessandro. Ti segnalo che tutto è predisposto per investire nelle start-up innovative e quindi nelle pagine di Norme e Tributi noi spieghiamo come funziona questo tipo di investimenti. Poi, siccome devo fare il mio grido di guerra, sì. Volevo fare Yes Weekend, ma mi sembrava una cosa... Comunque, a tutti voi un uomo non venale, Mauro Meazza, che lega l'amicizia a 2 milioni di euro, va bene, ma comunque va bene. Sono un uomo tutto d'un pezzo, esatto. Perché noi giornalisti dobbiamo tenere la schiena diritta. Volevo dirti, sulle strisce blu, sì. Tutta questa polemica. Sì. Allora, il Ministero ha chiarito definitivamente, si spera, il Comune deve fare un regolamento se vuole imporre questa multa. L'abbiamo comunque detto, eri distratto, caro, ma no, in apertura l'abbiamo detto. Stavi guardando il rigore il rigore dell'Udinese. Comunque tu leggi sempre Maurizio Caprino, questo. Devi leggerlo specialmente se è il momento del? Vado? Vai. Del traffico! Noi pagheremo bolletta e loro polchetta. Alessandro Mila, il Mauro Meazza dell'informazione. Eccolo lì, ovviamente. Allora, telenovela, puntata numero 7412. Il caso Berlusconi, la candidatura dei figli. Non basta che Berlusconi dica non si candido, non basta che ieri Pier Silvio dica non mi candido. Due pagine su Repubblica, pagina 12 e 13, è guerra fredda ad Arcore, la successione a Berlusconi contesa tra Marina e Barbara. Quindi Repubblica profila questo scenario di uno scontro all'interno della famiglia tra i figli, per capire chi debba essere il successore di Silvio Berlusconi come candidatura. A proposito di Berlusconi, c'è anche il retroscena di Giovanni Palombo sul Secolo XIX che racconta come sia finito in realtà l'idillio. Questa in realtà è una situazione politica che è raccontata anche da vari giornali, cioè un Berlusconi che dice ora bisogna essere più di opposizione, basta essere né carne né pesce, dobbiamo fare opposizione dura al governo Renzi, questo in vista delle elezioni. Fine dell'idillio, Silvio rompe con Matteo. Questo è il titolo del Secolo XIX. A proposito sempre di Berlusconi, Repubblica fa due pagine dedicate alla nuova vita di Ruby. un intenso reportage di come Ruby Rubacuori nell'ultimo anno sia stata vista, racconta Paolo Berizzi, tra Milano, poco per la verità, lusso e business in Messico, a Playa del Carmen e anche investimenti a Dubai. La nuova vita di Ruby dal bunga bunga a Dubai con 2 milioni in tasca, tra l'altro racconta Repubblica, in queste vicissitudini è anche stata fermata per rissa in Messico in questo anno. Per quel che riguarda la politica italiana c'è anche da registrare, abbiamo sentito il giornale radio, il fatto che la regione Calabria di fatto si ritrova senza presidente, perché è stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico il governatore Giuseppe Scopelliti. 6 anni di carcere condanna, uno in più rispetto a quelli chiesti dalla pubblica accusa peraltro, ma è scattata anche l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dunque arriva la sospensione dalla carica di governatore fino al 2015. Ora si deve provvedere a trovare un sostituto, non è detto che sia la vicepresidente che porti fino alla scadenza naturale del mandato l'aprile 2015. Sta di fatto che 6 anni a Scopelliti, la Calabria resta senza governatore, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera. Va bene, abbandoniamo l'Italia. Io, come detto, come anticipato, parleremo di pena di morte alle 8.15. Avremo il direttore di Amnesty International d'Italia con il rapporto annuale, avremo anche la storia di un italiano che è fuggito dagli Stati Uniti dopo aver compiuto un omicidio nel 1993 per evitare la pena capitale. Oggi sui giornali c'è la storia di un signore che è rimasto in Giappone 45 anni nel braccio della morte e ieri è stato scagionato ed è stato rilasciato. Iwao Akamada, Odissea nel braccio della morte, liberato dopo 45 anni, titola Il Giorno a pagina 13. Per 45 anni, racconta Lorenzo Bianchi, ha aspettato che i secondini bussassero alla sua cella per accompagnarlo al patibolo. Mercoledì, Iwao Akamada, 78 anni, ex pugile professionista giapponese, titolare del poco invidiabile record mondiale del soggiorno più lungo nel braccio della morte, è uscito dal carcere di Katsushika nella prefettura di Shizuoka. E davanti al portone c'era ad attendere la sorella di 81 anni, protagonista di una decennale campagna per liberarlo. Anche sulla stampa si ricorda non solo il caso ultimo giapponese, anche gli altri precedenti. La scorsa settimana è stato liberato dopo 30 anni trascorsi nel braccio della morte negli Stati Uniti Glenn Ford, rilasciato dalla Louisiana, era il 12 marzo condannato alla sedia elettrica nell'84, liberato la scorsa settimana perché è innocente. Oppure c'è stato anche Herman Wallace, passato 41 anni in cella di isolamento per l'omicidio di una guardia carceraria, rilasciato poi il 1 ottobre, è morto 3 giorni dopo. E ancora Curtis McCarthy ha trascorso da innocente 21 anni nel braccio della morte dell'Oklahoma prima di riuscire a provare la propria innocenza nel 2007, la stampa ricorda anche questo caso. In ogni caso sono tanti, l'ultima vicenda è proprio questa giapponese, la prova del DNA libero dopo 46 anni nel braccio della morte, anche il Messaggero dedica mezza pagina a questa storia con Fabio Morabito. Mentre tornando alla cronaca italiana, siamo vicini alla conclusione, tornando alla cronaca italiana, c'è questa notizia che, alla quale Libero dedica una pagina addirittura. È stata recepita una direttiva europea e ora sui mezzi di trasporto locale potranno anche esserci immigrati a guidare, conducenti degli autobus, perché c'era un regio decreto che impediva, un regio decreto fascista dell'8 gennaio 1931, la cosiddetta legge sulle corporazioni, che impediva l'assunzione di personale straniero nelle imprese del trasporto pubblico. In realtà è un qualcosa che era stato già magari aggirato e soprattutto era stato respinto da alcune sentenze, ma ora La novità è che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un decreto legislativo che recepisce la direttiva europea che di fatto cancella questo regio decreto. Capolinea Italia, immigrati alla guida del bus. Questo titola Libero a pagina 19. Dopo gli uffici statali, pure le aziende di trasporto pubblico potranno assumere stranieri senza cittadinanza. E Libero la mette come una polemica di questo tipo. Vince la linea Chienghe, perché l'ex ministro Chienghe si era battuto su questo. Va bene, allora, oggi devo dire che il giornale ha accumulato una serie di materiale che potrebbe farle vincere la carta costa per i successivi 5 giorni, ma ne devo scegliere uno, e allora, beh, certo, volevo scegliere questo. È stato un bel ballottaggio. C'è una pagina intera sul geniale Corvo. Il Corvo che sa ragionare come un bambino di 7 anni. Oggi glielo dico a mia figlia, brutta corvaccia, quando la vedo più tardi. Ma soprattutto stravince, perché ho scelto questa, d'altronde a mio insindacabile giudizio. Ricordate il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali? È a mio insindacabile giudizio, e quindi sempre sul giornale, vince Simonetta Caminiti, quei baci d'amore che scompaiono dopo il matrimonio. Dramma per il giornale, perché quando la passione se ne va e dopo il matrimonio non piace né agli uomini né alle donne baciarsi in bocca. Ci sono questi bacini, questi giusto, perché secondo questo sondaggio per le donne il bacio, insomma, la bocca dell'uomo è fonte di batteri, e per l'uomo invece, perché la bocca di una donna ormai è una radiolina che non si può più spegnere dopo il matrimonio, e quindi ma il bacio che manca. Aiutami col giornale radio, dai. Mattino. Siamo qui alle 8:18, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, ieri, cari ascoltatori, in Giappone un signore di 78 anni, si chiama Iwao Akamada, è uscito dal carcere dove ha passato gli ultimi 48 anni di vita, perché era stato condannato a morte. Condanna per impiccagione, ha speso una vita dunque in attesa di essere ucciso dallo Stato. Ieri è stato rilasciato perché innocente. Cito questo caso di cronaca non per dire, ecco, vedete, è sbagliata la pena di morte perché si rischia che lo Stato uccida un innocente, cosa che peraltro è successa anche varie volte. Lo dico solo come spunto di cronaca, perché in realtà la mia personale posizione sulla pena capitale, lo dichiaro preventivamente, chi mi segue lo sa, è di essere un fiero oppositore della pena di morte, sempre comunque, anche di fronte, anzi soprattutto di fronte ai criminali più efferati, perché è facile dire essere contro la pena di morte quando c'è un dubbio giudiziario. Ha più senso invece ribadirlo quando può apparire scomodo farlo. Voglio fare un'estremizzazione, sarei stato contrario alla pena di morte anche per Adolf Hitler, ecco, per dare un esempio. Allora, Amnesty International ogni anno fa un rapporto sulle esecuzioni nel mondo. Io saluto Gianni Ruffini, che è direttore di Amnesty International Italia. Buongiorno Ruffini, benvenuto. Buongiorno. Allora, mi sembra di capire che purtroppo c'è stato un aumento delle esecuzioni capitali lo scorso anno rispetto all'anno precedente. Purtroppo sì, ce ne sono 98 in più rispetto all'anno precedente. Va detto che comunque in termini generali la tendenza negli ultimi decenni è stata verso una riduzione sistematica della pena di morte in quasi tutti i paesi. Rimane solo una grande macchia nera, che è la Cina, da cui non abbiamo dati ufficiali, anche se l'ultimo dato, diciamo, attendibile, anche se non ufficiale, sulle esecuzioni in Cina, che del 2009 ci parlava di 5.000 esecuzioni. E la Cina, ricordiamo, è il paese dove, anche se i dati non sono ufficiali, mi sembra di poter dire, è il paese dove c'è il maggior numero di esecuzioni nel mondo. Indiscutibilmente sicuramente anche per una varietà di reati che in qualunque altro paese sarebbero oggetto di una pena molto minore. Anche appropriazione indebita può essere una giustificazione per la pena di morte in Cina. Anche perché noi sappiamo molto, per esempio, di paesi perché sono democratici come gli Stati Uniti, e quindi anche nella pena di morte fanno sapere tutto in maniera trasparente quante sono le persone che vengono uccise, come vivono, quanti sono i nomi dei detenuti, eccetera. Ci sono invece paesi, quali sono i paesi, a parte la Cina, dove tutto avviene nel modo più oscuro e impenetrabile, Ruffini? Ma per esempio la Corea del Nord, da cui non abbiamo dati attendibili, soprattutto perché appunto l'esecuzione si applica anche lì a una serie di casistiche criminali che sono a volte risibili. Abbiamo anche paesi in cui si esegue per omosessualità, come l'Uganda, che da poco ha adottato una legge di questo genere. I paesi che eseguono più sentenze sono, dopo la Cina, l'Iran, l'Iraq, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti e la Somalia. E devo dire, fa un po' effetto vedere gli Stati Uniti in compagnia di questi stati. Beh, certo, è una classifica non certamente di cui andare fieri, ed effettivamente i paesi che ha citato, messi a confronto degli Stati Uniti a livello di democrazia, stride moltissimo. Allora, 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Parliamo di pena di morte, ditemi la vostra, chiamate, dite anche se siete a favore, cercate di spiegare perché. Noi qua risponderemo anche con Gianni Ruffini per cercare di capire perché invece, a nostro parere, visto che anche Ruffini lo metto dentro, la pena di morte è sbagliata sempre e comunque. Volevo raccontarvi questa storia, la storia di un signore che si chiama Pietro Venezia, cittadino italiano, che nel 1993, per la precisione il 24 dicembre, dunque alla vigilia di Natale, in Florida, ebbe un violento litigio con un esattore del fisco, David Bonham, un litigio al termine del quale spuntarono le pistole. E Pietro Venezia sparò e uccise Bonham, ma ha sempre dichiarato: l'ho fatto per legittima difesa, ho sparato prima io perché stava per spararmi lui. Sta di fatto che questo in Florida era considerato un omicidio di primo grado, un'accusa che avrebbe comportato il rischio di una pena capitale, e per questo Pietro Venezia scappò prima negli Stati Uniti, in North Carolina, poi riuscì ad arrivare in Italia. Io lo saluto, Pietro Venezia, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto a Radio 24. Allora, chiariamo subito una cosa. Lei oggi è un uomo libero perché lei ha scontato la sua pena in Italia. In che carcere? Ho scontato la mia pena in carcere di Taranto, in Puglia, tra Taranto e Lecce. Tra Taranto e Lecce. Io, vabbè, qua non dobbiamo riepilogare la sua storia. Lei ha sempre detto: fu una legittima difesa la mia, cioè ci fu questo litigio. Comunque sì, fu un errore mio, non avrei dovuto. Però comunque, sai, questo è a posteriori. Comunque sì, è sempre un errore sparare o prima o dopo, sempre. Questo ne vale perché c'è la libertà di portare le armi negli Stati Uniti. Certo, in Florida. Lei scappò prima in North Carolina e così, quindi negli Stati Uniti. Signore. E poi come riuscì ad arrivare in Italia? Con un biglietto aereo regolare me ne venne in Italia. Ma perché regolare? Non era ricercato negli Stati Uniti? Assolutamente no, non sapevo che ero stato io. Fui io stesso a chiamare il mio avvocato e a mandarlo alla questura, diciamo alla polizia, e mi sono autodenunciato. Si è autodenunciato. Quando lei si autodenunciò, gli Stati Uniti chiesero l'estradizione, e sul suo caso si pronunciò la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, nel caso Venezia appunto, stabilì che il divieto della pena di morte è un principio che contraddistingue la civiltà giuridica del nostro paese, l'Italia, e dunque la Corte Costituzionale disse no all'estradizione negli Stati Uniti, perché, come dire, non si estrada una persona in un paese dove questa persona rischia la pena di morte. Lei racconta che quando seppe questa notizia in carcere scoppiò a piangere dalla gioia. Certo. Perché, insomma, perché davvero rischiava la pena di morte negli Stati Uniti? Diciamo che l'ho sempre rischiata la pena di morte, ancora oggi c'è questa spada di Damocle che gli Stati Uniti mi ricercano nella loro terra, diciamo, non possono estradarmi dall'Italia, questo è poco ma sicuro. Cioè, se lei va negli Stati Uniti adesso, lei non può assolutamente andare negli Stati Uniti? Assolutamente, perché perché loro non riconoscono la sentenza italiana, non riconoscono la mia pena che ho fatto 22 anni qui in Italia di carcere. Mm. Lei come giudica la posizione dell'Italia dal punto di vista dei diritti civili? Una posizione sacrosanta, una posizione giusta? Qual è la sua posizione? E mi dica anche qual è la sua posizione sulla pena di morte anche prima del suo caso, quando lei era negli Stati Uniti? Certamente. Bisogna pensare che non è un deterrente la pena di morte, sia negli Stati Uniti che in qualunque altra parte del mondo. Sono sempre stato a favore della pena capitale, sono un cristiano cattolico, perciò anche la mia religione me lo impedisce questo, quale è giusto che sia così. La vita di una persona è sacrosanta, cioè deve essere il rispetto assoluto. Che si possono fare degli errori, come l'ho anch'io commesso, poi io sono un reo, confesso, deve capire questo qua. L'ho ammesso, il mio errore l'ho ammesso e l'ho pagato. Comunque questo non mi dà la possibilità di rifarmi contro quello che ho fatto. Ho sempre fatto qualcosa di molto sbagliato e me ne pento e me ne pentirò per tutta la vita. E per questo lei dice, però ho pagato 22 anni. Beh, io Gianni Ruffini, al di là della storia di Pietro Venezia però ci ha raccontato una delle posizioni che è utilizzata dalle persone che sono favorevoli invece alla pena di morte. Ce ne sono negli Stati Uniti, è un dibattito molto aperto, più o meno sono metà spaccati nell'opinione pubblica, poi dipende dagli stati ovviamente. Uno degli elementi per cui si dice bisogna essere contrari alla pena di morte è che non è un deterrente, come ci ha detto Venezia, cioè laddove vige la pena di morte in quegli stati non è che i crimini efferati siano minori, è così? Effettivamente è così, i dati che abbiamo ci dicono che non c'è un impatto positivo della pena di morte nel senso della riduzione dei delitti violenti, anzi, prendiamo il caso del Canada, dal momento in cui ha abolito la pena di morte nel 76 c'è stata una riduzione degli omicidi di oltre un terzo. Ci sono studi portati avanti, uno studio portato avanti per 35 anni che ha messo a confronto Hong Kong, dove non c'è la pena di morte, e Singapore che invece ce l'ha, e non c'è nessuna differenza minimamente significativa sul tasso di omicidi. Francamente non c'è, anzi ci sono forti sospetti che la pena di morte possa in molti casi spingere verso comportamenti ancora più violenti, visto che quello che rischio è la vita, allora tanto vale che faccia pagare alle vittime la stessa pena, tanto vale che elimini tutti i testimoni possibili, tanto vale, è una guerra, sono in guerra contro la legge e combattiamo ad armi pari. Certo, sì, questo poi a volte spinge molti criminali ad essere ancora più efferati. Poi non si riesce a entrare, diciamo, nella psicologia di chi commette un crimine nel momento in cui lo commette, soprattutto se è un crimine così efferato che comporti la pena di morte. Pietro Venezia, lei perché è reo confesso in Italia, perché non ha pensato di confessare in America? Perché c'era il rischio della pena di morte? Cioè lei era consapevole di questo oppure si è lasciato prendere, che ne so, dalla paura? No, dopo che mi è successo l'incidente, chiedo scusa, perché io lo chiamo incidente, mi sono rivolto al mio avvocato. E con il mio avvocato abbiamo visto cosa potevamo fare, perché io volevo consegnarmi immediatamente, anche se loro non sapevano. Però c'era il problema che c'avevo i miei genitori, che erano vecchi e malati, e volevo vederli per l'ultima volta. Allora abbiamo visto che c'era anche l'estradizione e che rischiavo la pena capitale. Comunque, anche con i miei avvocati americani, non intendo solo quelli italiani, abbiamo cercato di fare un accordo affinché io potessi ritornare negli Stati Uniti ed avere un regolare processo. Però che io l'unica cosa che chiedevo delle garanzie che non mi sarebbe applicata la pena capitale. Sì. Cioè, questa garanzia non è mai arrivate, perché nessuno poteva darlo. Cioè lei sarebbe stato disponibile a tornare negli Stati Uniti e a subire il processo negli Stati Uniti se gli Stati Uniti avessero detto in anticipo non chiederemo mai il procuratore non avrebbe mai chiesto la pena capitale. Esatto, questo il procuratore disse che non poteva farlo fino all'ultimo secondo, e questo sono delle carte pubbliche, nei documenti pubblici, non è quello che sto dicendo io. certo. Per questo lei, insomma, non... Per questo poi sono rimasto in Italia e diciamo che mi sono quasi autoconsegnato alle autorità italiane. Fatto in modo che mi potessero prendere le autorità italiane, che solo loro potevano difendermi. Vogliamo ricordare, lei ha fatto 22 anni di carcere in Italia? Si condanna a 22 anni di carcere, sono uscito con una buona condotta e con l'indulto. 22 anni di carcere. Allora, ripartiamo tra qualche minuto. Siamo con Pietro Venezia, che ci sta raccontando la sua storia. Ricordiamo, nel 93 ha compiuto quello che lui chiama un incidente, insomma, l'omicidio di una persona negli Stati Uniti, in Florida, e siamo con il direttore di Amnesty International Italia, Gianni Rufini, per parlare di pena di morte. Chiamateci 800 24 00 24, tra poco anche le vostre telefonate. State con noi. 24 mattino. Alle 8.37 minuti stiamo parlando di pena di morte. Con noi ci sono Gianni Rufini, direttore di Amnesty International Italia, e Pietro Venezia, che ricordo nel 93 compì un omicidio in Florida ed è fuggito. Ha scontato la pena in Italia, lo voglio ribadire, ha scontato 22 anni di carcere in Italia, e sul suo caso si pronunciò la Corte Costituzionale a dire non può essere estradato in un paese dove rischierebbe la pena di morte. Allora io vorrei sentire Diana da Milano, ci ha chiamato. Diana, buongiorno. Buongiorno, io sono sempre stata contraria alla pena di morte, però ritengo che si imponga un ripensamento e sia necessario ritenerla utile per i casi in cui l'omicidio viene preceduto da tortura e da stupro, e questo per una serie di valutazioni che adesso sarebbe troppo lungo fare, e naturalmente anche quando l'omicidio sia strage. Perché? Quindi lei, Diana, dice quando gli omicidi sono particolarmente efferati, in quel caso la pena di morte ci vuole. Io invece la mia non posizione di partenza... Non solo particolarmente efferati, ma anche rivolti verso vittime che non si possono difendere. La mia posizione, vede, era proprio partendo contraria. Io dico proprio in quei casi, perché sono i casi più controversi, è importante dal mio modo di vedere dire sono contro la pena di morte, perché è facile dirlo nei casi invece meno. Le voglio chiedere questo, Diana, questo perché? Per una sete di rivalsa, di vendetta, di giustizia, lei come lo chiama in questi casi? No, perché io penso che nell'evoluzione globale, diciamo, di tutti i sistemi sociali, quelli più arretrati e quelli più evoluti adesso, siano creati moltissimi tabù, e quindi ritengo che un certo tipo di pena di morte possa essere deterrente. Sentivo, tra parentesi, che è stato utilizzato un liquido che produce 20 minuti di agonia in occasione proprio di un'ultima esecuzione negli Stati Uniti in questi giorni. Non credo che sia ancora stato approvato e non ho capito come mai è stato usato. No, non è che è stato usato, è che ci sono molte aziende che si rifiutano ora, proprio per essere contrarie alla pena di morte, di mandare quelle sostanze che invece provocano una morte non dolorosa, e quindi in America, per continuare le esecuzioni, si ricorrono a farmaci che provocano più dolore. Cioè non è un accanimento, è il fatto che molte aziende farmaceutiche si rifiutano ora di mandare i farmaci, quelli che procurano una morte meno dolorosa. Diana, prego. Ecco, io penso invece che paradossalmente una morte particolarmente dolorosa annunciata per certi tipi di reati efferati potrebbe avere invece quell'effetto deterrente che oramai non hanno più altri sistemi di autoregolamentazione e di tabù sociali. Va bene. Diana, la sua posizione è molto chiara, cioè è una pena di morte soprattutto in questi casi, e che soffrano anche, che sia una pena di morte, insomma, dolorosa. E va bene, Rufini, cosa rispondiamo all'ascoltatrice? Ma non posso che ribadire quello che dicevo un attimo fa, non esiste veramente nessuna indicazione che la pena di morte faccia da deterrente, anzi esistono segnali forti che potrebbe addirittura peggiorare la situazione e spingere verso una maggiore violenza. Detto questo, gli Stati Uniti d'America, che sono il paese più ricco del mondo, che sono sicuramente un paese democratico e liberale, nonostante la pena di morte hanno il più alto tasso di crimini violenti di tutti i paesi occidentali, ma di gran lunga superiore agli altri. non mi, certo, possiamo discutere se sia nato prima l'uovo o la gallina, cioè se sì, sia la pena sì. di morte perché ci sono troppi crimini violenti o viceversa. Il punto è che comunque la coesistenza di crimine violento e pena di morte è dimostrata nei fatti. Non c'è una riduzione dei delitti in presenza della pena sì, di morte. Sì, poi nel fatto di voler quindi dire... Anche applicarlo a tipologie specifiche di reati non avrebbe un impatto. No, ma poi il fatto di voler dire da parte di Diana... applicarla anche in modo doloroso è quello che è per molti, io non condivido, sono totalmente all'opposto rispetto a questo, ma è quello che è per molti, cioè si abbia il coraggio di dirlo, una voglia di vendetta proprio tribale, anche un po' da medievale, se si vuole, perché non c'è altro motivo, insomma. Poi mi permetto di dire, ma cosa c'è di peggio della prospettiva di passare 40 anni chiuso in una cella? Francamente preferirei morire piuttosto che vivermi l'orrore dell'ergastolo da questo punto di vista. Sì. Poi naturalmente non tutti la penseranno così, ma non trovo che la pena di morte possa mai essere un elemento di dissuasione. Chi conduce delitti molto violenti e normalmente ha vissuto una vita disperata e non ha prospettive di crescita, di sviluppo, di miglioramento delle proprie sì. condizioni di vita, vede la morte quasi come una benedizione. Allora io sentirei Mauro da Roma, buongiorno Mauro. No. Senta, io volevo raccontare un'esperienza personale che ho fatto all'estero. In che paese? In Guatemala. Io sì. sono cresciuto in Guatemala, ho fatto il liceo francese in Guatemala. Voglio raccontare rapidamente. Quando io credo facevo la terza liceo, ci presero un giorno, ci fu un crimine particolarmente ferrato di tre individui che violentarono, stuprarono e poi uccisero una ragazza. Decretarono la pena capitale di questi tre individui e il presidente, il governo dell'epoca, volle che questa pena capitale fosse stata trasmessa in TV nazionale. Sì, mi ricordo, ci fu una polemica internazionale anche. Esatto, ci presero, diciamo, dalle aule della scuola, credo la seconda, la terza ora, ci portarono nell'aula magna del liceo, scusate, e proiettarono questa pena capitale in diretta a tutti i ragazzi anche nella scuola. Io mi ricordo perfettamente la scena del capitano, dell'ufficiale, che fu una pena per fucilazione, fucilarono questi tre individui o quattro individui, ora non mi ricordo, e poi alla fine della fucilazione alcuni non erano stati uccisi e l'ufficiale, diciamo, del plotone andò uno per uno a dare un colpo in testa a tutti quanti e questo fu trasmesso in TV. E le reazioni? Allora io le dico, ho 32 anni, ora vivo a Roma, lavoro in Italia, io ancora sono emozionato a raccontare sta cosa e io ancora a volte me la sogno, cioè io ho ancora gli incubi 15 anni dopo e mi rivivo questa scena abbastanza spesso, diciamo, visti passati ormai 15 anni. Quindi al di là volevo raccontare questa cosa, ovviamente sì, io sì. Avendo vissuto questa cosa sono assolutamente contrario alla pena di morte, anche perché ho vissuto in paesi dove c'è la pena di morte e non serve assolutamente a nulla, perché poi i crimini efferrati continuano a essere. La ringrazio Mauro, io vorrei tornare per un attimo a Pietro Venezia. Venezia, lei come detto ha scontato la pena, perché lo ripeto varie volte, perché sa, molti anche via sms ci dicono ma insomma questa persona comunque ha tolto la vita a un'altra persona, lei ci ha già detto io mi sono pentito e me ne pentirò per tutta certo, la vita sempre. Però intanto perché ha potuto scontare la pena in Italia per un crimine avvenuto in America? La legge italiana prevedeva questo, essendo che non potevo essere sfradato negli Stati Uniti, la corte italiana, la legge italiana mi ha potuto condannare qui e ha avuto un giusto processo e ho dovuto scontare la mia pena in Italia. Lei quando è andato in America era uno di quegli italiani che vedeva nell'America la patria e vede nell'America la patria della democrazia, delle opportunità, del farsi una vita, del... Io sono arrivato in America nel 1975 sì. per caso, perché lavoravo con una compagnia norvegese, la Royal Viking della Norvegia, e loro mi ci hanno mandato lì in California. Poi mi sono messo in proprio, ho fatto la mia fortuna, diciamo, in America. Ero un giovane, ero molto giovane, cioè avevo 23-24 anni quando mi sono poi messo per conto mio, poi ho messo su famiglia e sono rimasto lì. Ho fatto sempre l'imprenditore in America. E come la come considera gli Stati Uniti un paese democratico? Molto democratico, cioè the land of opportunity, la terra delle opportunità. L'ho sempre visto così nei miei tempi. Oggi purtroppo anche i due figli sono rimasti in America. E la sua famiglia, ecco, come ha vissuto? Beh, la mia famiglia ha vissuto malissimo, certamente, non era una bella cosa. Io ho perso mia moglie un paio di anni fa per un'altra disgrazia e ho due figli che sono rimasti in America. Mia figlia che vive e studia a New York e mio figlio che è rimasto a Miami. Però è rimasto in contatto, nel senso vengono a trovarla? Sì, assolutamente. Però lei non può, ovviamente, come ben detto, mettere assolutamente piedi negli Stati Uniti. Non posso mettere piedi negli Stati Uniti perché sono ancora ricercato, pur essendo che e sanno che io mi trovo in Italia, sono sempre ricercato nel suolo americano. È chiaro. 24 mattino. Allora, le 8:47 minuti, sono tantissimi gli ascoltatori su questo tema che ci hanno chiamato. Sentirei Stefano dalla provincia di Roma. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti. Dunque, io la penso come lei per quello che riguarda il discorso della pena di morte, non sono favorevole. Però non sono neanche d'accordo sul fatto che in Italia non ci sia assolutamente la certezza di pena, nel senso che anche questo signore che insomma è un omicida, confesso, se l'è cavata tra virgolette in realtà con 22 anni, cioè io sono per pene molto più severe quando si tratta di omicidi o di reati particolarmente odiosi per la comunità, ergastolo, colonie penali, sì. Lavori forzati durissimi. Ecco. Però guardi Stefano, adesso io non sono per 22 anni in carcere, non sono pochi, 22 anni non sono un quarto, sono un terzo della vita delle persone in alcuni casi. Sì, per quella persona però non c'è più la vita. Ma questo non c'è dubbio, cioè nel senso, però allora qual è allora vedi che l'alternativa è dire allora togliamo la vita anche a chi ha tolto la vita, se facciamo proprio un discorso di uno a uno. L'alternativa non è togliere la vita, è dare una punizione esemplare. E secondo lei, secondo lei 22 anni non è esemplare? Cioè, no, secondo me no. Le darebbe l'ergastolo, 40 anni, 50 anni? 22 anni è poco, poi bisognerebbe vedere se è un reato particolarmente odioso, anche l'ergastolo vuoi forzare. Ma per esempio negli Stati Uniti c'è il cosiddetto life without parole, cioè la possibilità dell'ergastolo senza anche essere rilasciati sulla parola, no? Diciamo così. Cioè un ergastolo effettivo. E quindi quello si può applicare. Cioè io non sto mica dicendo che uno che fa dei crimini efferati deve andare libero e tranquillo, no? Ruffini, questo è un altro tema che però viene detto, soprattutto stiamo parlando molto degli Stati Uniti, anche se la vicenda è molto variegata nel mondo, però si dice, ecco, non c'è la certezza della pena, vedere magari degli omicidi che dopo 10 anni o 20 anni sono liberi, questo suscita la reazione a dire, beh, ma allora facciamo la pena di morte, così almeno queste persone non possono più certamente delinquere. Ma ci sono diversi fattori da considerare, innanzitutto pensiamo per esempio a quanti casi di revisione della sentenza si verificano in quest'ambito. Negli ultimi 40 anni mediamente ogni anno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato sentenze per circa 35 condanne a morte l'anno, il che vuol dire che siamo in presenza comunque di sistemi giudiziari che sono ampiamente fallibili e quindi comminare la pena di morte senza una certezza assoluta e indiscutibile costituirebbe già di per sé una violazione gravissima dei diritti delle persone. In secondo luogo, di nuovo, la certezza della pena dipende dalla qualità della giustizia e dipende anche da una visione della pena non solamente come vendetta o castigo, ma anche come occasione di riabilitazione, di recupero della persona. Noi siamo il paese di Cesare Beccaria, non ce lo dimentichiamo. Questo dobbiamo certamente vedere il carcere soprattutto come un'occasione per la persona per rieducarsi, per ravvedersi e per diventare un cittadino normale. Vorrei sentire Filippo da Livorno. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno. In realtà il presidente di Amnesty International mi ha appena preceduto, nel senso che secondo me bisogna semplicemente vedere con quale filosofia si vede la pena. A mio modo di vedere, la pena è una pena riabilitativa che debba servire all'imputato, al condannato, a reinserirsi in maniera positiva nella società. La pena di morte e l'ergastolo a vita è sicuramente una pena esclusivamente punitiva, è una vendetta che la società mette in atto contro delle persone che hanno sbagliato. Chiaramente ci sono delitti più o meno efferati, più o meno vigliacchi, però comunque la società civile non si può mettere a far vendette contro... No, ma è chiaro, è una vendetta di Stato. Io, Filippo, la ringrazio. Vorrei tornare, Pietro Venezia, chiariamo un attimo, perché lei ci ha detto ha goduto dell'indulto e quindi uno sconto di 3 anni, perché ovviamente molti ci scrivono, ma insomma 22 anni, dal 93 neanche sono passati 22 anni. Esatto. E quindi in realtà lei... Ma ho detto dall'inizio. Sì, indulto 3 anni, poi sappiamo che in carcere con la buona condotta e ci sono degli sconti di pena, cioè lei effettivamente in carcere quanto è stato in Italia? 15 anni effettivi. Cosa risponde all'ascoltatore che dice sono pochi, ci vuole una pena più esemplare, una pena 15 anni effettivi di carcere per un omicidio sono pochi, e questo suscita negli ascoltatori e in molte persone a dire allora forse ci vuole più durezza però della pena. Bene, però la pena deve essere sempre a un fine, deve sempre avere un suo fine, il fine del reinserimento del reo. Perché se tu lo lasci una persona per 50 anni, a cosa gli serve? Tanto vale ammazzarlo prima. Lei... Io capisco questo, che delle persone, ognuno, io rispetto, per carità, io rispetto delle, quello che pensano gli altri, però bisogna vedere da individuo a individuo, no. No, certo, perché lei dice 15 anni sono lunghi, e posso immaginare sono lunghi, però l'ascoltatore ci ha detto, però quella persona alla quale lei ha tolto la vita... Persona, questa persona deve essere rispettata, io la rispetto, per carità, però ci sono le persone che mi hanno giudicato, dei giudici che mi hanno giudicato, ci sono delle persone che mi hanno seguiti in tutto il mio percorso carcerario, e sono le persone, dei giudici che hanno detto sì, questo signore è pronto per poter uscire. Io sono uscito, sono il tempo necessario l'ho scontato, sono uscito. Chi sono io? Chi ero io? Anche questo bisogna tenerne conto. Chi sono oggi io? Lei si sente una persona cambiata rispetto a quel momento in cui... Ma certamente, quel momento è stato un attimo. Quello è stato una... Ricordiamoci, signori, che quello che ho passato io, quell'attimo che ho passato io, può capitare a chiunque. Può capitare a chiunque. Io sono un reo confesso, io potevo starmene zitto, però c'avevo la mia coscienza. Mi capisce? Le forze degli Stati Uniti non l'avrebbero mai saputo che ero stato io, però c'avevo la mia coscienza. Io gli ho detto che sono stato io a commettere quell'omicidio. Io sono stato io, mi capisce? Però bisogna vedere pure la sentenza, andiamo a vedere la sentenza, il giudice, cosa ha detto il giudice? È vero quello che è successo a Venezia, però vediamo anche chi era in Venezia. Cioè, hanno giudicato quello che era il suo percorso fino a quel momento. Certo. Fatemi sentire anche Lia da Roma, l'ultima ascoltatrice. Buongiorno, Lia. Buongiorno, io volevo esprimere un pensiero positivo, mi sembrerà strano, ma siccome quando parliamo di Europa ultimamente parliamo di difficoltà dell'euro, di ritardi politici, e guardiamo appunto ad altri paesi, ad altri modelli un po' in positivo, oggi devo dire mi sono inorgoglita a sentirvi nel ricordare che l'Europa è di fatto l'unico continente che in maniera compatta rifiuta la pena di morte. Chiaro. Mi sembra un aspetto di civiltà da difendere con le unghie, con i denti, di cui andare orgoglioso. Assolutamente, Lia, concordo, e credo Ruffini, il Granducato di Toscana, sia stato il primo ad abolire la pena di morte in Europa, se non ricordo male, insomma, quindi un orgoglio anche italiano. Cosa di cui dovremmo essere orgogliosi. orgogliosi, francamente. Non a caso l'Europa è il continente in cui c'è il più basso tasso di criminalità e soprattutto di delitti violenti. Ricordiamoci che una persona a volte può uccidere sulla scia di un impulso forte. C'è gente anche nel nostro paese che di recente ha ucciso per discussioni di traffico, penso ai tassisti uccisi a Milano o altri eventi di questo genere. Ci sono momenti di follia nella vita di un individuo in cui si fanno cose che travalicano ampiamente anche la psiche, anche l'etica delle persone. Non possiamo trattare tutti nello stesso modo e non possiamo vivere in uno stato che desidera vendicarsi o esprimere una vendetta. Noi dobbiamo vivere in uno stato che cerca di darci serenità, stabilità e sicurezza. Sono assolutamente d'accordo. Si ottiene sicuramente meglio senza la pena. Allora, io ringrazio Gianni Rufini, direttore di Amnesty International Italia, e Pietro Venezia, che ci ha raccontato la sua storia. Ovviamente tanti in bocca al lupo, e torniamo lunedì prossimo alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le astriti da politica.